America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero, sono venuto nella capitale americana per partecipare a un convegno che si è chiuso ieri sera del Council for United States and Italy, organizzato al Peterson Institute for International Economics con la Brookings Institution, quindi un consesso di think tanks. Il messaggio che ho avuto da Fred Bergsten, il capo, il fondatore del Peterson Institute for International Economics, beh, devo dire è piuttosto rassicurante, riflette anche quello che è successo ieri sui mercati, ricordiamolo perché ne vale la pena. New York, l'indice Dow Jones è balzato addirittura del 4% in una sola giornata. Ci sono stati degli interventi coordinati delle banche centrali che hanno molto rassicurato i mercati. C'è stato un beige book rilasciato qui a Washington dalla Federal Reserve che ha dato un quadro dell'economia statunitense direi più stabile di quello che molti si aspettavano, dunque una ventata di ottimismo e azioni soprattutto coordinate. Vi dicevo di Fred Bergsten. Fred Bergsten è un grande economista internazionale americano e ha dato ieri durante il convegno un'opinione, beh, devo dire molto chiara su quel che secondo lui succederà, e cioè alla fine la Germania dovrà cedere. Non può immaginare che ci sia da parte della Germania un atteggiamento ostile nei confronti dell'Europa al punto tale da affossare l'euro. Sarebbe un fallimento, dice Bergsten, politico, e un fallimento naturalmente economico e finanziario. Anch'io mi sono fatto un'idea negli ultimi giorni: esiste un tracciato, un percorso per cercare di uscire da questa crisi, e tutto molto concatenato. A un certo punto la Germania dovrà accettare un compromesso e ricevere garanzie da alcuni dei paesi più deboli, l'Italia, la Spagna, che andranno avanti con processi di risanamento. Ci sarà implicitamente uno sdoganamento della Banca Centrale Europea come lender of last resort, quindi qualche cosa ruoterà attorno alla Banca Centrale Europea, e poi finalmente Cina, Russia, Fondo Monetario potranno versare contributi che avevano già identificato e delineato durante il vertice di Cannes. Vi dicevo, potranno contribuire quantomeno a un fondo di stabilizzazione europea. Ci saranno a quel punto circa 400 miliardi di euro, pochini, ma se si fa un leverage di 4 si arriva subito a 1600 miliardi. Questo è il quadro a cui puntano le autorità italiane, le autorità europee. Sempre a Washington, a questo convegno, il presidente del Council for United States and Italy è Sergio Marchionne, che è intervenuto con delle prese di posizione, devo dire, molto dirette, però è inutile che ve lo anticipi perché l'ho intervistato e dunque vi farò ascoltare direttamente la mia chiacchierata con lui. Ha detto che la FIOM guarda indietro prima, ecco, in che modo, perché? Perché sta insistendo sull'applicazione di un contratto che ormai non ha più senso. Abbiamo avuto la maggioranza degli lavoratori che hanno appoggiato un'alternativa. Il treno è passato, è inutile cercare di insistere che bisogna rinegoziare e riaprire il tavolo. Quella decisione è stata presa, non posso rivotare fino a quando non vince la FIOM, no? Queste sono elezioni fasulle, non valgono niente. Ecco, lei ha parlato di maggioranza-minoranza, c'è un prevalere della minoranza, dice. La tirannia della minoranza verso la maggioranza, cioè il fatto che uno su 10 dipendenti mi va a condizionare come funziona un'azienda. Ecco, ma e quindi lei ha detto che se questa tirannia continua, la Fiat ha altre opzioni e se ne può andare. No, ma la Fiat non può essere la vittima di questa minoranza. Non può decidere con la maggioranza di fare una cosa, poi si rigira e si trova una decisione presa altrove che è diversa. Io non posso investire così, parliamo di miliardi di euro di investimenti, non mica sto parlando di aprire un supermarket. E quindi le alternative sono di lasciare l'Italia? L'alternativa è una multinazionale, gestiamo attività in tutte le parti del mondo, continueremo ad andare avanti. Abbiamo attività economiche, industriali, che stanno al di fuori dell'Italia, dove andremo ad andare avanti? Vendiamo macchine in Brasile, le vendiamo in America, in Canada, in Messico, le vendiamo in Cina, da tutte le parti, non importa. La cosa importante di quello che ho detto è che la sopravvivenza della FIA non può essere messa in discussione. Ci abbiamo messo 8 anni per rimetterla in piedi, le abbiamo create alternative attraverso questa alleanza con la CRAS, non possiamo metterla in dubbio, è completamente fuori discorso. Chiunque pensa di poter condizionare la Fiat e costringerla a fare delle cose si sbaglia alla grande. Ecco, ha detto che la Camusso anche ha chiesto dei piani di investimento, vuole dei documenti anche al governo. Ha chiesto, per cosa c'entra il governo? Scusi un attimo, sto povero uomo che sta lì, già deve gestire i suoi problemi. In che maniera sotto quale aspettativa, qual è la pretesa per venire dalla FIA? Dice dammi il piano per il 2014. Ma lo fa, scusi. Ha detto che c'è un problema di intrecci, un problema storico. Questo è soltanto un esempio di uno dei problemi di intrecci in Italia. Fa parte del concetto del welfare state italiano, dove lo Stato in effetti è andato a supplire ogni volta che c'è stato un problema, è entrato. No? Poi guardi, abbiamo visto la discussione di Termini Imerese, no? Chi ha pagato? Stata la Fiat, pure stanno cercando di dare a riconoscere le attività degli altri. La Fiat ha pagato, no? E lei ha parlato di Monti e gli ha fatto gli auguri per il futuro e dice che i politici lo lasciano lavorare. Ecco, che prospettive ha? No, questo lui deve portare avanti una serie di manovre per cercare di ottenere uno la tranquillità a livello europeo dei finanziamenti del paese. Questo lo deve portare avanti, se non ce la fa, allora il progetto è fallito. E in questo deve essere assistito e appoggiato dalla politica fino a quando non lo porta avanti. Non è che abbiamo molta scelta, lasciamolo lavorare. Questo l'ha detto pure qualcun altro, bisogna farlo lavorare. Io ho la fiducia nelle sue capacità di gestore. Ecco, lei conosce Monti, pensa che ce la farà? Lo conosco e lo rispetto, che è estremamente importante, no? È una persona capace, retta e preparato a fare le scelte su quale delle misure deve portare avanti e con quale rapidità. Quella è una scelta che ovviamente ha un impatto su tutti. E c'è un aspetto politico anche quello di questa scelta, in cui cosa non voglio interferire, sono scelte sue come gestore del paese. Lui adesso è il presidente del Consiglio, facciamolo lavorare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri a New York si è illuminato l'albero di Natale. Hanno cantato per l'illuminazione dell'albero anche Justin Bieber, Tony Bennett, Neil Diamond. E di Neil Diamond vi faccio ascoltare Sweet Caroline. Touching me, touching you. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.